Pino, dammi un telefono. C'è da chiama. Mi chiama chi? Ma guarda. Pronto? Pronto. Chi è? Oh. Vuoi sapere? E voi ancora da state? Perché non stiamo prima? E me, facci il sub, che non ha avuto stiamo aspettando? Quale che non stiamo a fatichetto? Sì, a fatica un cazzo. Che mi dà cosmo. Facci il sub, so detto. Va bene, mo prima, mo prima. Pronto? Pronto. Oh. Pronto, non sento niente. Pronto. Ya, slandene, dai. Ehi. Pronto, me, sì, va fangù, vai.